dispiace, sì. Prego. Grazie. Se facciamo di corsa. Ecco, allora benvenuti. Grazie. Facciamo una cosa un po' leggera, visto già il caldo di questi giorni. Non voglio annoiarvi, per questo parlerò poco. Vi ho portato un po' di fotografie. Purtroppo non tutte le fotografie sono della stessa qualità, perché sono state fatte in momenti diversi, per occasioni diverse, alcune da me, altre da altre persone. Però gli oggetti sono quasi tutti dell'archivio dove io lavoro, che è l'archivio provinciale. Li ho portati come esempi di restauro, prima oggetti, prima e dopo il restauro, perché li ho scelti più che altro non per il loro valore particolare, ma più che altro perché nel discorso sono significativi. Chi c'era l'anno scorso mi ha già sentito parlare dei sigilli, di come sono fatti, di come venivano usati diverse tipologie e in parte, una parte finale anche sul restauro dei sigilli. Oggi parliamo in generale sul degrado dei documenti e sul restauro dei documenti. Allora, forse è superfluo dire che conservare libri, documenti e oggetti d'arte e di cultura in particolare è fondamentale per una società che vuole dirsi evoluta, appunto per tramandare questo scibile di generazione in generazione. Quindi in teoria il restauro si basa, è un fondamento, dovrebbe essere un fondamento della società. Purtroppo spesso ci si pensa solo in caso di eventi eccezionali come purtroppo guerre, alluvioni, terremoti, incendi, eccetera. Diciamo che il vantaggio di queste disgrazie è stato quello di servire a migliorare i vari procedimenti di restauro, i metodi di conservazione, insomma è servito come appunto base per sviluppare nuove conoscenze. Aspettate. Diciamo che prima di parlare di restauro vi devo mostrare almeno alcune cause di degrado, perché naturalmente il restauro dovrebbe essere l'ultimo ripiego, rimedio a fatti che non si potevano prevedere, come appunto catastrofi. Buongiorno, c'è posto. Però appunto l'ideale sarebbe che tutti fossero istruiti e preparati e contribuissero a una buona conservazione dei documenti e degli oggetti in generale, in modo che il restauro fosse potrebbe essere inutile, sì. Quindi per assurdo la figura del restauratore potrebbe essere superflua se tutto andasse per il verso giusto. Purtroppo non va sempre così, anche perché tutti i materiali, cioè nessun materiale è esente da un degrado naturale, proprio come le persone, gli animali, le piante, eccetera. E quindi la carta in particolare è uno dei materiali più deteriorabili. Quindi il restauro da solo sarebbe inutile se una volta effettuata la cura non si eliminassero le cause che hanno provocato il deterioramento. Quindi passiamo brevemente una serie di cause di degrado. Ecco, l'ambiente influisce in maniera determinante sulle condizioni chimiche o fisiche dei documenti. Spesso purtroppo i documenti vengono come altri oggetti, io adesso vi parlo di documenti, ma questo vale in generale per qualsiasi opera d'arte, per qualsiasi manufatto di artigianato, eccetera. Quindi purtroppo molto spesso i documenti sono conservati in luoghi non adatti, quindi o troppo bui, o umidi, o troppo illuminati, o a temperature elevate, o in luoghi poco ventilati, eccetera. Quindi vediamo velocemente. Adesso ve le faccio scorrere, poi dalle foto capite benissimo di cosa si parla. Naturalmente la luce, la temperatura, l'umidità, le sostanze inquinanti che possono venire dall'aria o anche dai materiali, la polvere, gli agenti biologici e il foxing, che poi vi spiegherò che cos'è. Ve lo spiego. Ecco, qui avete già il primo esempio. Abbiamo detto la luce. Qui avete una copertina in cartone, in carta leggermente sottile. Voi vedete la copertina era azzurra in origine. Sul dorso, questa è una copertina aperta, penso che immaginate. Come potete vedere dagli scaffali, gli scaffali spesso sono aperti e hanno una sbarra che li sostiene ai lati, dove ha preso luce in alto e in basso, dove non era coperta dalla, da questa sponda metallica o di legno, non sappiamo esattamente di che materiale era, qui vediamo sia scaffali in legno che metallici, dove ha preso luce la carta si è imbrunita. Dove non ha preso luce è rimasta azzurra come era in origine, dove ha preso un pochino di luce si è sbiadita. Quindi abbiamo già le prime cause di degrado, i primi effetti del degrado causato dalla luce, l'imbrunimento e lo sbiadimento dei colori. Qui abbiamo un esempio di una pergamena che era stata messa in cornice sotto vetro e qui vedete l'effetto strano. Dove c'era l'inchiostro scuro che ha coperto il passaggio della luce, il cartone è rimasto bianco come era in originale. Prego, c'è ancora posto. Prego, prego. Ah, scusi. Negli altri punti dove c'era solo la pergamena bianca, ha lasciato passare un pochino più di luce, si è imbrunito il cartone sottostante. Qui oltretutto vedete anche un bel esempio di danno dovuto a nastri adesivi. Quindi abbiamo diversi tipi di danno messi insieme. Qui, ecco, ci riallacciamo al discorso degli eventi eccezionali, in particolare qui del calore, qui ha preso fuoco naturalmente, ma è un esempio, come vedete, è un faldone che ha preso fuoco, si è bruciacchiato lungo bordo e per fortuna nella parte interna non è stato danneggiato. E questa è una dimostrazione appunto sempre che l'ambiente, ovviamente le prime parti che si danneggiano di un documento, in particolare di un libro, sono le parti esterne, quindi la copertina e i tagli del volume, che sono le prime parti che vengono a contatto con l'ambiente esterno. Quindi se l'ambiente esterno non è favorevole alla conservazione, le prime parti che si danneggiano sono la copertina e i tagli. Qui avete un dettaglio dei tagli bruciacchiati, qui avete un altro documento, un piccolo fascicolo in carta con una copertina di pergamena, qui avete un bel esempio, allora è bruciacchiato sui bordi, vedete questa differenza di dimensioni è dovuta al fatto che la carta si è solo bruciacchiata e leggermente ondulata, la pergamena avendo sentito il calore, molto più sensibile al calore, si è accorciata, si è ristretta. La pergamena è fatta con pelle in genere di capra o di pecora, come la pelle umana col eccessivo calore si raggrinzisce e si disidrata. E questo è l'effetto. Passata la causa, l'effetto è rimasto. Cioè il raggrinzimento, la pergamena non si è più ridilatata, tornando a condizioni normali, ha subito un danno permanente, è rimasta più corta di come era in origine. Qui avete un esempio, abbiamo parlato, cioè nella lista che vi ho messo c'erano la polvere e quelli che ho chiamato biodeteriogeni, cioè agenti biologici. Qui vedete, questa è una copertina di pergamena, una foto molto ravvicinata. Vedete, oltre al raggrinzimento, le ondulazioni e il raggrinzimento, vedete depositi di polvere e queste parti qui sono delle abrasioni dovute a insetti. Che hanno corroso la superficie della pergamena. Qui abbiamo un esempio di un danno da umidità. Come vedete c'è stato lo sbiadimento dell'inchiostro, lo spandimento appunto un po' dell'inchiostro e l'indebolimento della carta. La carta è diventata feltrosa come una carta assorbente e si sbriciola e perde i frammenti. Quindi sfogliando, a parte queste sono macchie d'umidità, vedete dove c'è stata l'umidità c'è un degrado chimico-fisico per cui la carta si sbriciola e sfogliando il documento sfogliando il documento si perdono i frammenti. Questo è un altro esempio, qui oltre alle macchie d'umidità vedete queste macchie colorate sono microorganismi perché aumentando l'umidità della nella carta si sviluppano muffe, praticamente sono muffe, sono di diversi colori, possono essere gialle, arancioni, marroni, viola come in questo caso, nere, poi ne vedrete altri tipi. Qui è un esempio sempre collegato all'umidità, a una cattiva conservazione e alle sostanze inquinanti. Qui praticamente è di cui la copertina si è corrosa perché è colata una qualche sostanza liquida con una sostanza chimica probabilmente che ha corroso sia la copertina di cartone che i fogli di carta. Come vedete, la carta adesso si rompe come a scaglie, e questo ve l'ho mostrato come esempio sia di umidità che di sostanze inquinanti. In questo caso la sostanza inquinante è questa all'interno, è colata sul foglio, quindi ha fatto questa macchia scura, ha lasciato questo deposito biancastro e ha corroso la carta. Poi gli inquinanti possono venire naturalmente anche dall'aria, anche solo con l'aria, se c'è un'aria particolarmente inquinata, anidride solforosa, solforica, diverse sono, anidride carbonica, biossido d'azoto, anche il cloro, per esempio in città che hanno cartiere o che sono sul mare, come so Venezia, Trieste, Napoli, città fortemente industrializzate sul mare, si combinano gli inquinanti con il cloro che evapora dal mare, no? Quindi sono una combinazione. Poi più naturalmente più cause sono in concomitanza, maggiore è il danno è esponenziale, cioè più sono le cause, umidità, inquinanti, polvere, tutto insieme, il degrado è moltiplicato in modo esponenziale. Qui avete la stessa copertina che avete visto prima, un po' più ingrandita, vedete bene la polvere, il raggrinzamento, l'imbrunimento della pergamena che è diventata anche dal calore e dal degrado è diventata dura e friabile, e le carte che si stanno sempre qui a scaglie si degradano. Qui avete un esempio di tarli, questi sono i comunissimi tarli del legno, che quando hanno mangiato a sufficienza lo scaffale di legno, oppure se i volumi vengono messi su scaffali metallici, il tarlo non disdegna di mangiare anche la carta. Comincia dalla copertina, perché è la parte con più sostanze nutritive, perché c'è pelle, colla, cartone dei piatti, la carta dei fogli di guardia, e mangia, in particolare qui ha mangiato lungo i bordi dove c'era il rimbocco della pelle. Qui ci sono attaccate, come vedete, le cinghie di chiusura, quindi hanno cominciato a mangiare nei punti che per loro erano più appetitosi, quindi dove c'era pelle, colla e cartone, e poi sono passati anche all'interno del volume. Questi sono i tipici camminamenti dei tarli. Questa è la copertina, come vedete è tutta bucherellata dal tarlo. E questa è una foto suggestiva contro luce che dimostra che i buchi hanno passato da parte a parte la copertina. Questa è una pergamena con un documento scritto che era stata riutilizzata, perché succede come adesso, ma anche nell'antichità i documenti, i materiali erano preziosi, in particolare pelle e pergamena, non venivano buttati via quando erano documenti obsoleti che non interessavano più. Venivano riciclati, diciamo così, per farne o degli altri documenti, raschiando la scrittura, oppure venivano riutilizzati, come in questo caso, per farne delle copertine per degli altri libri. Qui avete un danno multiplo, danno dovuto all'usura, ai buchi, ai fori dei tarli o di altri insetti che hanno mangiato la pergamena, e in più queste macchie arancioni e marroni sono dovute al collante, multistrati di collante che col tempo si sono degradati, si sono induriti, e in parte anche muffe. Qui abbiamo un danno che più che umidità può rientrare negli eventi eccezionali come le alluvioni. Questo è un libro che a causa di un bagnamento della carta ha sviluppato numerosi microrganismi, quindi queste macchie viola sono tipiche dei microrganismi. E come vedete, sia l'umidità che fa perdere il collante alla carta, rende la carta più igroscopica, più porosa, che assorbe gli inquinanti dall'esterno, ma anche i microrganismi che col loro metabolismo degradano proprio chimicamente e fisicamente la carta. Questo libro, come potete immaginare, non è più consultabile, perché se si provano a sfogliare le pagine si perdono completamente i pezzi. Questo è un particolare ravvicinato, come vedete qui siamo quasi ai limiti della restaurabilità, perché va sicuro che questo l'ho restaurato, ma ci ho messo alcuni mesi, perché sì, cercando di posizionare almeno i frammenti maggiori è stato un lavoro molto molto laborioso. Scusi, che documento era? Io vi ho parlato degli esempi vari, è un libro d'archiviazione degli inizi del 1600 di Bolzano. Non sto a dirvi, io faccio un discorso in generale, non importano le date, non importa il contenuto. Io volevo sapere, tu sei un faldone, che per quanto abbia letto un sacco di libri d'archivistica non lo so ancora. Faldone si intende un insieme di carte, di fascicoli riuniti secondo una logica del contenuto. Ah, sì, adesso mi ricordo. Ecco, però appunto non vorrei entrare in questi dettagli, anche perché dal mio punto di vista del restauro non mi interessa che documento è, mi interessa la causa, eliminare la causa e rimediare agli effetti che ha provocato. Quindi questo è lo scopo di questo incontro. Cioè, io tratto qualsiasi oggetto, che sia del 1100 o del 1950, allo stesso modo. Se c'è un degrado che è indispensabile, poi vediamo quali sono appunto i motivi che spingono al restauro. Io restauro qualsiasi cosa, antica, moderna, stampa, manoscritta, non è questo l'importo. Quello che importa a me come restauratrice è di poter ridare in consultazione un oggetto simile che così non sarebbe possibile leggere a nessuno studioso. Questo è un danno da topi, forse non lo vedete benissimo, ma qui si vedono i dentini del topo che ha rosicchiato, vedete, forse riuscite a vedere, ha rosicchiato le carte. Il topo mangia anche la carta? Se non altro è onnivoro, praticamente se non ha altro di meglio, dopo aver mangiato derrate alimentari o altre cose, può mangiare anche la carta. E il danno, soprattutto il danno maggiore che fa, è che spesso si fa il nido nei libri o in mezzo agli scaffali, quindi si trovano questi libri, io per fortuna non ne ho neanche uno trovato nel nostro deposito, questi sono danni vecchi di prima che entrasse nel nostro deposito, e praticamente si scavano una specie di tana all'interno del volume, quindi si può trovare proprio un buco sporco anche degli escrementi del topo, eccetera, che si è fatto il nido proprio all'interno del volume. Ma chi era il bibliotecario allora che non si è accorto di sta roba? Non glielo so dire. Non glielo so dire. Un altro a causa di degrado, che forse avete letto prima velocemente nella lista che avevo messo, è il foxing. Il foxing è un danno molto particolare. Intanto il nome è un nome universale che viene da fox, che significa volpe, e è usato in tutti i paesi, sempre tutti usano questo termine foxing, perché sono provoca una serie di macchie di questo color rossiccio, tipico della pelliccia della volpe, di due tonalità, una un po' più chiara, più gialla, e una un po' più bruna, o puntini molto più, appunto, macchie puntiformi, oppure un po' più frastagliate, un po' diverse. Però su tutte le carte, in tutte le epoche, in tutte le condizioni, crea queste macchie. Probabilmente, qui avete un altro esempio, qui le vedete in bianco perché fanno contrasto con l'imbrunimento del cartone su cui sono. Pensano che sia una degradazione indotta da metalli, cioè carte che contengono metalli pesanti come ferro, manganese, eccetera, degradandosi sviluppano questa colorazione marroncina. Ecco, adesso abbiamo parlato dell'ambiente, abbiamo detto l'ambiente influisce in modo determinante sulle condizioni del documento. Naturalmente anche i materiali stessi. Ci sono materiali più resistenti, materiali nati per durare, diciamo, materiali che per se stessi non hanno una lunga durata. Pensiamo per esempio ai quotidiani. Il nome quotidiano lo dice già, deve vivere un giorno. Quindi dal punto di vista conservativo non è certo un documento con un fatto di un materiale che duri nel tempo, lo sapete tutti, ingiallisce, magari l'inchiostro si sbiadisce, eccetera. E anche la struttura. Allora, appunto, in quanto riguarda i materiali, abbiamo detto, dipende da come sono fatti, carta, cartone, pelle, pergamena, come vengono fabbricati, tipo di inchiostri, colori, spesso venivano aggiunti degli additivi che col tempo magari si degradano più velocemente, fanno degradare il materiale più velocemente. E la struttura naturalmente dipende, in caso di volumi rilegati, il tipo di legatura, può essere già una causa di degrado, e il supporto, se sono carte o altre pergamene incollate su un altro supporto. Adesso vediamo subito. Ecco, qui avete un bel esempio dell'inchiostro acido. Qui avete un foglio di carta con delle iniziali, qui vedete sul verso, qui avete il verso del titolo, lo vedete. L'inchiostro è passato attraverso, lo vedete sul retro della carta. Questo è un tipico esempio di inchiostro acido. perché era fatto con delle sostanze acide minerali che col tè praticamente erano dei pigmenti minerali legati con acqua, collanti e acido solforico o altri tipi di sostanze acide che col tempo si degradano e corrodono la carta. L'altra pagina che è appoggiata sopra? No, il retro della carta. Ok, lo stesso foglio. Lo stesso foglio, su un lato ha questi iniziali, è un indice, quindi questi sono nomi. Sì. Queste sono le lettere, le iniziali con i vari nomi. Questo che vedete invece in trasparenza è il titolo che c'è sull'altra pagina. Però può essere anche che resti lo stampo della carta a fronte. Okay. Quello anche succede. In questo caso è una questione proprio d'acidità che è passata attraverso. Qui vedete il particolare ravvicinato, questa è l'iniziale di una carta interna, quella era la prima pagina, questa è una carta interna, vedete proprio che si è corrosa la carta. Dove voi vedete bianco qui, era nero, c'era l'inchiostro nero che ha corroso la carta, ha fatto il buco attraverso. Qui avete un esempio di tipo di cucitura non a lunga conservazione, come vedete il dorso che doveva essere convesso è diventato concavo perché col tempo i nervi hanno tirato al contrario il dorso, vedete? Si è incurvato al contrario, quindi questo è un tipo di danno dovuto alla struttura. La cucitura molto stretta tirando, l'usura del libro che è stato spesso aperto, richiuso, la copertina morbida, questa è una pergamena floscia, si dice in gergo, la copertina morbida non ha, mentre voi vedete i libri cartonati rigidi, le assi di legno tengono il dorso curvato. In questo caso una cucitura d'archivio, una legatura d'archivio con una copertina di pergamena floscia, la pergamena è morbida e i nervi, che sono la cosa più resistente, hanno tirato al contrario. Questo è un esempio di danno dovuto alla struttura, abbiamo detto, del supporto. Questo è un albero genealogico, di cui poi vi mostro la parte restaurata. Praticamente la carta si è consumata, si è corrosa, dovuta ad abrasioni e al degrado della carta. Era incollata su una tela, naturalmente la tela ha una grana molto più grossa e più resistente, si è danneggiata la carta prima della tela, poi si è danneggiata anche la tela, come vedete. Però qui c'è un doppio degrado, il degrado dovuto alla trama grossa della tela, che ha lasciato anche il segno sulla carta, e il danno dovuto al collante che col tempo si è indurito, e poi probabilmente anche qui anche insetti che hanno eroso il collante. Quindi questo è il risultato di un albero genealogico in carta incollato su una tela troppo grossa per lo spessore della carta. Qui abbiamo un esempio di una stampa, un'incisione in carta, questa viene da Novacella, è una processione religiosa, incollata su un asse di legno. Anche qui la carta la peggio perché è il materiale più debole, quindi il legno che col tempo, col calore, si è incurvato, si è spaccato, ha creato le spaccature sulla carta, in più si sono aggiunte le erosioni dei tarli e lo scurimento, a parte macchie di umidità naturalmente sopra, qui le vedete benissimo, le gore dell'umidità, macchie di vario genere, di sostanze non identificate e soprattutto l'imbrunimento, fortissimo imbrunimento, la carta era bianca in origine, adesso è diventata arancione, marrone, l'imbrunimento dovuto alla colla e all'acidità del legno, naturalmente il legno che contiene lignina ha trasmesso tutta la sua acidità alla carta che si è scurita, quindi un danno, come vi ho detto prima, diverse cause tutte insieme. L'imbarcamento del legno, le spaccature, gli insetti, la colla, l'acidità del legno. E questo è il risultato di come è diventata questa povera incisione. Qui avete un altro esempio, sono due stampe, vi ho mostrato una sul davanti e una sul retro, di un cartone di cattiva qualità, si chiama pasta di legno, cartone pasta legno. Sul davanti vedete queste macchioline, quel foxing di cui vi parlavo prima. E sul retro vedete queste striature dovute all'ondulamento del cartone che era sul retro, era incorniciata, questa stampa era incorniciata sotto vetro, quindi vedete che si è ondulato per probabilmente umidità e in più, e dove toccava sul cartone di cattiva qualità, di pasta legno sul retro, si è imbrunita di più dove non toccava. Quindi vedete come il contatto con un materiale scadente provoca un degrado. qui mi piaceva così un esempio simpatico di riutilizzo, come vi dicevo, di materiale riciclato che non si butta via, sono vecchi documenti del 600 che sono stati riutilizzati probabilmente nell'800 per farne questo lampadario. Questa è la parte superiore di un abat-jour. Ci hanno messo questi bei postoni incollati sopra. Qui avete un danno dovuto all'uso, all'usura. Naturalmente questa carta era tirata su un'intelaiatura di metallo e è successo che si è sfondata e si è crepata nei punti dove era vuoto, insomma. Era un esempio così simpatico, sempre di riutilizzo. Ecco, abbiamo visto appunto l'ambiente che è una causa di degrado, il materiale stesso, la struttura e naturalmente l'uso. Noi parliamo dei documenti, non solo, sì, le stampe possono essere degli oggetti come i quadri appesi, però la maggior parte dei documenti che tratto io vengono usati, sono libri, documenti che vengono maneggiati. Quindi naturalmente anche queste sono cause che incidono sul degrado, quindi come vengono immagazzinati. Nel nostro caso abbiamo un magazzino a parte, ma se voi avete dei documenti a casa o come qui in biblioteca, gli scaffali, o se uno ha un suo studio con una libreria, eccetera. La consultazione, naturalmente i libri sono fatti per essere letti, usati, quindi voi potete immaginare il maneggiamento dei documenti col tempo ne provoca. Ovviamente più vengono letti da più persone e più in fretta si degradano. Il furto purtroppo rientra in un uso sconsiderato, diciamo, e la cattiva manutenzione e i restauri mal eseguiti. Esistono anche quelli, naturalmente, ci sono stati nelle epoche, purtroppo esistono anche adesso, restauratori maldestri che hanno fatto più danno che al degrado che hanno curato. Qui avete degli esempi, molto velocemente, ovviamente di cattivo magazzinaggio. Come vedete, questo è uno scantinato umido con tutte le pareti con l'intonaco scrostato dalle muffe e, come vedete, i documenti non sono certo messi in modo tanto corretto sugli scaffali. Questo è un altro esempio, qui avete scaffali di legno, ma cambia poco, sono comunque buttati così un po' alla rinfusa sugli scaffali e sicuramente poco curati. Qui abbiamo anche uno spandimento di acqua che è entrato dalla finestra e anche dalle tubature probabilmente, e i faldoni buttati così a casaccio sugli scaffali di metallo. Qui abbiamo un danno dovuto alla consultazione, come vi dicevo. Qui avete delle belle ditate di gente che ha il vizio di leccarsi il dito o di sfogliare i documenti con le dita sporche. Questa è pergamena. Io vi assicuro che questo è un danno che non va più via. Cioè, togliere queste macchie di grasso da un documento è quasi impossibile, perché bisognerebbe proprio erodere il materiale per riuscire a togliere. Adesso esistono dei micro laser che, come fanno dagli intonaci degli edifici, riescono leggermente, però è sempre un compromesso tra consumare il materiale originale e togliere il danno. E qui anche, vedete, anche questa è una pergamena, e questa è proprio pura sporcizia che si è depositata sui bordi. E questo rientra nei furti. Questo è un pezzo di una pergamena, di un documento con una pergamena, qui c'era una bella miniatura, probabilmente con lo stemma del nobile di cui si parla nel documento, e è stata tagliata via e rubata, naturalmente. E questo purtroppo è stato fatto su tanti volumi, magari miniati, che avevano tante pagine, bellissime pagine, hanno strappato le pagine con la miniatura lasciando il libro scritto da parte, e di ogni pagina con la miniatura si sono fatti un bel quadretto. Questa è una cosa che ancora nel Novecento è successo spesso, ai mercatini d'antiquariato si trovavano spesso queste paginette di libri ritagliati per farne dei bei quadretti. Qui avete un altro esempio di corrosione dell'inchiostro acido su una pergamena. Qui avete un esempio di cattiva manutenzione, tra pennarelli, etichette varie, scotch vario incollati su un volume, per carità, è dell'Ottocento, però comunque non è sicuramente un metodo per aggiustare ed eventuali danni di una copertina. Questo è un altro esempio di una stampa su cui anche vedete sempre macchie di foxing, strappi dovuti all'uso, cattivo uso, e questi bellissimi nastri adesivi anche il nastro adesivo, come le macchie che vi dicevo prima, è una delle cose più brutte da riuscire a eliminare. Corona? Intanto resta il lato appiccicoso del collante del nastro adesivo, e anche quando col tempo si perde questa collosità, resta comunque questa macchia arancione, che si può togliere solo a scapito di una corrosione della carta. E questo è un esempio di cattivo restauro. Poi vi mostro un'altra pergamena restaurata un po' meglio. Questo è un esempio intanto di danno forse dovuto a un'alluvione. Questa è una pergamena che si è gelatinizzata, quindi è diventata trasparente e rigida. Si vede l'inchiostro anche qui in trasparenza davanti e dietro, e poi è stata restaurata con questa orribile pergamena nuova bianca che fa un bruttissimo contrasto, e soprattutto un restauro inutile, perché con o senza questo intarsio di pergamena il documento non cambia niente, cioè non perde e non guadagna nulla. Ecco, naturalmente, come si diceva prima, se ci fosse una buona conservazione e una regolare manutenzione, che vale per qualsiasi cosa, dalle strade agli edifici, vale anche per i documenti d'archivio o per la vostra biblioteca di casa vostra, ci vuole una manutenzione continua e regolare per mantenere in buono stato gli oggetti. Ecco, la prima cosa è, come abbiamo detto, la luce, l'umidità, la temperatura, che sono tra le cause del degrado, vanno controllate, regolate con degli strumenti. Allora, questi sono i valori ideali, insomma. L'umidità dovrebbe essere tra il 45 e il 65%, la temperatura tra i 16 e i 20 gradi, e questi sono i valori che si dovrebbero utilizzare per la luce, che la luce non sia troppo forte sui documenti. Scusi, cos'è un UR? UR sarebbe l'umidità relativa. Ah, che si misura con l'igrometro. Sì, adesso appunto vi mostro. Ci sono degli strumenti per misurare, questi sono strumenti professionali, però un piccolo termometro, un piccolo igrometro da parete, potete anche mettervelo in casa vostra se volete. Questo è un termoigrografo, cioè qui in questo cilindro c'è un fascio di capelli che sente l'umidità dell'esterno e fa muovere questi pennini, sente gli sbalzi di umidità e di temperatura, li trasmette ai pennini che li registrano su questo, un cilindro che ruota, può ruotare in un giorno solo, può ruotare in una settimana, può ruotare in un mese, ci sono diversi tipi a seconda dello scopo, questo dura una settimana ma il principio non cambia. I pennini registrano su questi diagrammi, nella parte alta dovrebbe essere l'umidità e nella parte bassa la temperatura. E registrano in modo che dopo la fine della settimana uno ha nero su bianco che cosa è successo nel deposito, per esempio, dove aveva i suoi libri, per vedere. Questo è un igrometro, un termoigrometro digitale, quindi registra al momento, con questa sonda, registra dall'aria al momento la temperatura e l'umidità che c'è in quel momento, in quel posto. Mentre l'altro appunto la scrive, per cui l'altro è molto più dettagliato. Questo va bene se si vuole fare un sopralluogo da una stanza all'altra, vedere così. Questo è uno psicrometro, al principio è lo stesso, ci sono due termometri, il termometro a bulbo secco e questo che è il termometro a bulbo umido, che ha questa pezzuola che intinge nella vaschetta di acqua. Praticamente uno misura naturalmente la temperatura, l'altro misura l'umidità. Da una misurazione qui, tramite una tabella, si può la differenza tra questa, la temperatura registrata qua, e il valore registrato di qua, si può capire che umidità c'è nella stanza. Quindi è un altro modo per misurare. E questo, un luxometro, misura, con questa sonda, misura che illuminazione c'è nell'ambiente. Ecco, naturalmente, allora, questi sono gli strumenti. Abbiamo detto, spesso i documenti vengono messi in luoghi non adatti. Abbiamo detto, umidi, poco areati, sporchi, o bui, o viceversa, troppo illuminati. Quindi queste sono naturalmente delle, diciamo così, linee basilari, quindi il deposito, la vostra biblioteca, insomma, dipende. Se l'avete in casa, naturalmente avrete l'ambiente ideale in cui vivete voi. Quindi ci vuole una ventilazione, una spolveratura periodica, la pulizia dei locali periodica, che serve, una pulizia periodica serve anche per controllare che non ci siano, abbiamo visto, topi, tarli e muffe che si stanno sviluppando e espandendo per tutto il deposito, e un arredo razionale, abbiamo visto prima quegli scaffali con le cose buttate su a caso, insomma. Qui ho semplici esempi, qui avete un macchinario specifico fatto per il museo, per le biblioteche, vedete l'esempio, in questi fori è un piccolo mobiletto, in questi fori si infilano le mani, con dei guanti si possono spolverare i documenti e poi la polvere viene aspirata da questa specie di aspirapolvere col bidone. Ci sono diversi modi, volendo uno spolvera tranquillamente con un pennello morbido anche fuori sul balcone di casa, spolvera la polvere fuori all'aria aperta, insomma. Questo è un esempio di una cella di deacidificazione. Abbiamo visto che la carta si degrada per l'acidità o del materiale stesso o degli inchiostri o dei colori. Queste sono delle celle apposta a livello industriale, con delle ceste in cui vengono messi dentro i libri, anche nuovi come prevenzione, oppure vecchi, vengono trattati con un gas che deacidifica il materiale, col libro chiusi, e poi vengono rimessi nei depositi o nelle biblioteche. Questa invece è un'autoclave per fare la disinfestazione del materiale, quindi materiali, come abbiamo visto, attaccati da muffe o insetti, vengono messi in questi particolari camion, chiusi con questo portello, vedete, questo portello sottovuoto, vengono chiusi, si immette un gas che uccide gli insetti e i microrganismi, si arieggia, si cambia l'aria, eccetera, in modo da togliere il, chiamiamolo, veleno, prima di rimettere i volumi nei depositi. Questi sono interventi eccezionali, che vengono fatti solo, naturalmente, in casi di catastrofi. Questo è un esempio del nostro deposito, come vedete, rispetto a quello, appunto, quello di prima, che aveva gli scaffali tutti brutti e la muffa sulle pareti. Questo è un bel deposito, ha un piccolo svantaggio, come potete già vedere, c'è un'illuminazione esagerata. Quindi un'illuminazione così è troppo forte, va bene solo nel momento in cui il magazziniere va a prelevare i documenti che gli servono, poi spegne subito la luce. Non può restare un'illuminazione così giorno e notte per tutti i giorni dell'anno, perché sarebbe naturalmente degradante per i documenti. Il vantaggio è che questi, si chiamano compactus, sono degli scaffali chiusi che scorrono su questi binari, e quindi il fatto che siano chiusi, sono riparati anche dalla luce e dalla polvere. Viceversa, se restassero sempre chiusi ermeticamente, si creerebbe all'interno un microclima di umidità e temperatura che potrebbe alla lunga essere dannoso, perché abbiamo detto ci vuole la ventilazione. Infatti abbiamo un grosso impianto di ventilazione che aspira l'aria, la ricambia e ributta dentro aria nuova. Quindi se restassero sempre chiusi ermeticamente non sarebbe una buona cosa. Ecco, allora veniamo al restauro. Dietro, dunque, abbiamo detto che in teoria ogni società deve conservare il proprio patrimonio culturale per trasmetterlo di generazione in generazione. Quindi lo scopo del restauro qual è? Arrestare il degrado che si è già verificato, abbiamo visto, riparare gli effetti, però come abbiamo detto la cura sarebbe inefficace se non si eliminano le cause che abbiamo visto. Quindi va bene il restauro, ma prima di rimettere i documenti restaurati in depositi non adatti bisogna naturalmente pensare alla sanificazione dei depositi. Quindi abbiamo detto il restauro è un atto di cura per ridare in uso l'oggetto. Avete visto quei documenti che si sfarinavano, impossibile da sfogliare, eccetera. Naturalmente lo scopo del restauro non è solo estetico, anche estetico, ma soprattutto per ridare all'uso l'oggetto per lo scopo a cui era destinato. Un libro era destinato ad essere sfogliato, ad essere letto. Quindi la priorità è la necessità di un intervento di restauro qual è? La presenza di alterazioni tali che ne impediscono il suo uso, l'uso a cui era destinato. Quindi restaurare, cioè quando lo stato di degrado è tale che appunto l'oggetto non è più utilizzabile, e quando, non intervenendo, si può causare la totale distruzione del documento. Quindi abbiamo detto, supponendo che la conservazione sia ottimale, che cosa si restaura? Si restaurano gli oggetti, appunto, abbiamo visto, danneggiati da eventi eccezionali e dal degrado intrinseco dei materiali. Quindi abbiamo detto c'è un degrado naturale inevitabile e quindi certi materiali devono essere per forza restaurati anche se sono conservati in condizioni ottimali, perché per loro natura si degradano. Quando? Naturalmente abbiamo detto quando l'intervento permetterà di prolungare la vita del documento e viceversa quando non intervenendo si porta alla distruzione del materiale. Quando? Possibilmente quando il documento non è in uno stato tale, come abbiamo visto quello che era quasi ai minimi termini, che non si riesce a recuperare più niente, perché l'intervento di restauro, io a volte lo dico, è un po' assimilabile a un intervento chirurgico. Se il paziente sta già, è sull'orlo già della morte, più che la rianimazione non c'è, e quindi bisognerebbe intervenire con la chirurgia un pochino prima che il documento sia proprio ai limiti della distruzione. Naturalmente bisogna valutare vantaggi e svantaggi. Il restauro è un intervento rischioso che può portare esso stesso dei possibili danni e quindi bisogna valutare se appunto l'intervento serve per prolungare la vita del documento e renderlo di nuovo fruibile a scapito di qualche cosa. Per esempio, non so, restaurare una vecchia cucitura che non sta più insieme significa tagliare i vecchi nervi di cucitura, non poterli più riutilizzare, certe parti, mi dico certe copertine, non sono più riutilizzabili, dove è possibile si riutilizza tutto il materiale, quindi appunto si cerca di arrivare un po' a un compromesso, mantenere più parti possibili, restaurarle e riutilizzarle, dove non è possibile bisogna fare delle aggiunte. Ecco, bisogna fare anche una scelta. Siccome il restauro sono tempi lunghi, come avevo detto, certi documenti ci mettono anche mesi a restaurarli, tempi lunghi, alti costi e rischi, si può pensare anche se è proprio indispensabile restaurare questi oggetti. Quindi, per esempio, si può restaurare, adesso vi mostro degli esempi concreti, si può restaurare solo una parte del documento. Abbiamo visto che, siccome spesso è la parte esterna la prima che si danneggia, spesso basta restaurare la copertina e l'interno del volume non occorre restaurarlo. Quindi, scegliere se restaurare tutto il documento oppure no, se è una serie di documenti decidere di restaurare solo singoli pezzi e non tutto l'insieme. E qui vi ho messo l'uso differenziato dei documenti. Cosa significa? Appunto che bisogna valutare caso per caso. Per esempio, in una biblioteca di pubblica lettura, quando il documento è danneggiato si butta letteralmente e se ne compra uno nuovo che sia identico o più aggiornato magari nei contenuti. Non serve restaurare un documento che ormai è obsoleto anche nei contenuti, giusto? Si fa una scelta. Se è un pezzo unico, naturalmente si spendono tutti i soldi che sono necessari per restaurarlo. In una per esempio la Biblioteca Nazionale, che per statuto deve salvaguardare tutti gli aspetti del libro, se la consultazione porta naturalmente a un consumo, a un danneggiamento del volume, si dà in consultazione una copia, che sia microfilm, copia anastatica o qualsiasi cosa, o fotocopia o fotografia digitale, e l'originale viene conservato nel migliore dei modi perché resti per i posteri. Un privato, per esempio, naturalmente io ho pochi libri di un certo valore, se voglio li restauro tutti, oppure ci sono quei privati a cui interessa solo il dorso bello con i caratteri dorati sullo scaffale, allora si fa un restauro finalizzato a questo. Se a un altro privato interessa solo il contenuto testuale, come abbiamo detto, se il libro è danneggiato si trova un'altra copia perché a lui interessa solo la parte scritta. Per esempio il documento d'archivio, naturalmente lì è ancora più importante, come vi dicevo, la serie, prendere in considerazione tutta la serie intera, poco senso restaurare magari il singolo pezzo, bisogna pensare a una buona conservazione per tutta la serie. E lì è importante per esempio anche conservare tutti gli aspetti, anche la piegatura delle pergamene, il tipo di cucitura, se sono magari miscellane, altre cose, bisogna vedere anche questi aspetti mentre si fa un restauro. E per esempio, ecco, non so, anche dei libri di personaggi illustri, il restauro deve tener conto, per esempio, che delle postille, delle sottolineature, anche le orecchie fatte alle pagine, se io le tolgo durante il restauro perché le reputo un danno, posso fare io un danno agli studiosi perché tolgo degli elementi che che so io, Petrarca, ha aggiunto di sua mano ai bordi di un tale volume, insomma, per cui ogni oggetto va visto caso per caso. Naturalmente nel restauro ci sono degli interventi che si ripetono quasi sempre in tutti i tipi di restauro, insomma, lì bisogna appunto valutare, ci sono dei sistemi, dei metodi generali, poi vanno applicati modificandoli caso per caso. Adesso vi dico ancora velocemente, ecco, nell'Ottocento hanno cominciato le prime teorie del restauro che si sono poi protratte, insomma sono stati decenni e decenni di discussioni sul tipo di restauro da applicare. Allora c'erano i sostenitori di mantenere l'oggetto allo stato di rudere, cioè non far niente, non toccare niente, perché la storia aveva, anche i danni erano, facevano parte della storia, della stratificazione storica del documento. Viceversa c'era chi sosteneva che, per esempio sono state ricostruite intere città, questi sono gli esempi più eclatanti, ma questo vale anche per dipinti eccetera, che venivano ritoccati, venivano rifatti, ridipinti sopra, poi ogni paese un po' ha la sua tendenza di riportare l'oggetto apparentemente a uno stato di nuovo, insomma, di oggetto nuovo. Questo è altrettanto sbagliato che lasciarlo come rudere. Naturalmente non si può lasciarlo come rudere perché si nega l'uso per cui era stato destinato. Se io tengo quel manoscritto come relitto non lo potrò mai più leggere, quindi contraddico lo scopo per cui era nato. Viceversa, ricostruirlo, vedremo adesso, assolutamente non si rifanno le scritte perché sarebbero delle falsificazioni, si possono fare dei ritocchi sulle carte come si fanno sui dipinti, insomma sulle sculture, però deve sempre differenziarsi la parte nuova dalla parte originale. Ecco, evitare interventi inutili, sembra banale ma non lo è, spesso vengono fatti dei restauri. Vi ho mostrato prima quella pergamena a cui erano stati aggiunti quei pezzi bianchi, non serviva assolutamente a niente al fine di conservare la pergamena originale. Ecco, per esempio, avevamo visto questo. Qui il tarlo ormai ha bucato la copertina. Una volta eliminato il tarlo con la disinfestazione o in altro modo, come abbiamo visto, il danno si è fermato, i buchi ci sono. Inutile star lì a chiudere buco per buco, sarebbe un intervento assolutamente assurdo, potete capire anche voi, no? Quindi questi sono per esempio gli interventi inutili. Interventi inutili sono, quali sono? Sono quelli che non hanno come scopo la conservazione, quindi sono dettati puramente da motivi estetici. E tra questi rientrano per esempio smacchiamenti o sbiancamenti dei documenti solo per renderli più belli. Abbiamo visto per esempio quella stampa con quel tracce di scotch. Certo, si può fare uno sbiancamento per togliere le macchie di scotch che poi comunque non verranno via al 100%, ma a scapito del degrado della carta, e quindi bisogna valutare bene se è il caso di fare un intervento simile oppure no. Interpretazione cosa significa? Che il restauro spesso diventa un momento di conoscenza, cioè nel momento in cui il restauratore mette le mani sull'oggetto, lo analizza, lo studia, deve interpretare bene appunto quali sono le cause, qual è la storia dell'oggetto, vedere qual è l'intervento migliore da applicare oppure no, perché può migliorare la vita del documento, ma può anche creare un danno. Il danno può essere creato sia danneggiando l'oggetto, accelerando il suo degrado, ma anche riducendone i valori documentari. Abbiamo visto prima, se io spiano tutte le orecchie che Petrarca ha fatto al libro che stava leggendo, tolgo un'informazione che magari a uno studioso del Petrarca diceva, ecco, gli interessava questa pagina qui, questo argomento qui, per esempio. L'etica della conservazione cosa significa, cosa intendo? Il restauro, come tutte le professioni, ha un'etica professionale, l'etica del restauratore, che dice questo si fa, questo si può non fare, questo è meglio non fare. Però siccome abbiamo visto il restauro è un momento, un breve momento attivo della vita dell'oggetto, ma la conservazione è un momento passivo più lungo, l'ideale sarebbe estendere l'etica del restauro ha un'etica della conservazione che riguarda naturalmente i singoli proprietari, i bibliotecari, gli archivisti, i direttori di musei, eccetera, in modo che, abbiamo detto, il restauro sia solo un rimedio a fatti eccezionali, la norma sia la buona conservazione. Quindi tutti dovrebbero essere sensibilizzati a conservare bene i loro documenti o i loro oggetti d'arte o qualsiasi cosa, in modo che la responsabilità non è solo del conservatore, che del restauratore, che può aver danneggiato effettivamente durante un restauro maldestro, può aver danneggiato l'oggetto, ma più spesso il danno, abbiamo visto, è dovuto a un cattivo maneggiamento, a un cattivo magazzinaggio, eccetera. Abbiamo detto che bisogna valutare vantaggi e svantaggi. A volte bisogna sacrificare qualche cosa per poter restaurare l'oggetto. Tutto quello che viene sacrificato andrebbe registrato assolutamente in una scheda di restauro. La scheda di restauro serve intanto all'inizio per analizzare bene l'oggetto, come è fatto, come è stato costruito, quali sono i materiali, che storia ha avuto, tutto quello che, osservando bene il manufatto, si riesce a capire, a trovare della sua storia, va tutto registrato. Poi naturalmente vanno registrate le cause del degrado per poterle eliminare, e in modo da che non succedano più in un futuro dopo che l'oggetto è restaurato. E naturalmente, appunto, come abbiamo detto, è un momento di conoscenza. Spesso gli oggetti erano assolutamente abbandonati e neanche considerati prima del restauro. Dopo un corretto restauro vengono finalmente valorizzati come avrebbero dovuto essere dall'inizio. E naturalmente la scelta del materiale e degli interventi è fondamentale. Per il restauro devo utilizzare materiali a lunga conservazione, non posso aggiungere quei cartoni di pasta legno, inchiostri acidi, collanti che vengono attaccati dagli insetti o dai microrganismi. Devo trovare dei materiali che siano di ottima qualità e garantiti nel tempo. Adesso ci sono dei materiali che hanno studiato già da diversi decenni, ci sono ottimi materiali in circolazione, sono garantiti addirittura per centinaia di anni. Per esempio, la carta che uso per il restauro è garantita 400 anni, per esempio. Quindi se il restauro è fatto in modo corretto, un documento, come abbiamo visto, del 1600, restaurato adesso, in teoria dura fino al 2400, per esempio. Ecco. Se verrà conservato in buone condizioni. E poi una cosa fondamentale, quindi allora i materiali, ma anche il tipo di intervento deve garantire idoneità, naturalmente, deve essere adatto all'oggetto, allo scopo, durata, stabilità, assenza di pericolosità. Abbiamo visto prima, certe disinfestazioni, certi interventi devono naturalmente essere fatti da professionisti e garantire che poi l'oggetto disinfestato o deacidificato nell'autoclave, quando va in sala di lettura, non avveleni tutti i lettori che lo prendono in mano. Sembra una banalità, ma insomma è ovvio che è così, che sia efficace naturalmente. E soprattutto il principio fondamentale del restauro è la reversibilità. Significa che qualsiasi intervento io faccio, e soprattutto qualsiasi materiale nuovo io aggiungo all'originale, in qualsiasi momento lo posso togliere senza danneggiare l'originale. E adesso vi mostro delle belle fotografie, spero. Così mentre vedete le foto capite. Ecco, questo è un esempio di volume restaurato, questo è un manoscritto, adesso esattamente non so se è del 600 o del 700, comunque. Forse l'archivista dalla scrittura lo sa dire. Ah no, scusate, lo leggo qua, 1646. Ecco, questo, come vedete, allora il documento, avete visto, documenti erano danneggiati o dall'usura, la polvere, la sporcizia, le ditate, le macchie di umidità e i microrganismi. In questa parte, allora, il documento è stato pulito, è stato smacchiato, sono stati risarciti gli strappi, sono state risarcite le lacune, come vedete, con una carta, chiamiamola neutra, che si cerca di scegliere una carta dello spessore e del colore più simile all'originale. In questo caso dalla foto sembra un po' bianca, ma bisogna partire dalla carta com'era l'originale della carta, in genere appena appena avorio, e come vedete la scrittura non è stata rifatta. Anche se avessimo avuto una copia identica da cui copiare la scrittura, non si farebbe comunque, perché sarebbe una falsificazione. Questo è un altro esempio. Qui, come vi dicevo, si parlava dei compromessi. Qui vedete la scrittura, allora la macchia si è un pochino alleggerita, ma come vedete è rimasta parte della macchia. Si poteva smacchiare in modo più pesante. Come vi ho detto, si cerca un compromesso tra la migliore conservazione per la carta e la maggiore leggibilità del documento. In questo caso il documento è relativamente leggibile. Purtroppo si è dovuta incollare sopra una velina. Voi vedete che l'inchiostro è un pochino attenuato rispetto alla fotografia precedente. Vedete, qui la scrittura è molto più nitida. In quella successiva sembra più offuscata perché c'è questa velina sottile incollata sopra. È stato indispensabile perché il documento era talmente friabile, si sbriciolava, si aprivano diversi strappi. Su un lato, naturalmente solo su una facciata del foglio, viene incollata una velina sottile che dia più consistenza al foglio in modo che si possa consultare, si possa sfogliare tranquillamente. Ci sono dei modi, come abbiamo visto prima, degli inchiostri sbiaditi, con la lampada agli ultravioletti, cosiddetta luce di Wood, si può leggere, il strumento è un po' più difficoltoso, ma si possono leggere anche le parti sbiadite che sembravano illeggibili, quindi non tutto è perduto. Certo è più facile leggere un documento nitido, volendo anche con questa lampada agli ultravioletti si possono leggere dei documenti che sembrano ormai irrecuperabili. Questo è l'esempio di questo documento che vi ho mostrato prima, di questo. Questo è un particolare dopo il restauro. Anche qui, come vedete, c'è questa velina incollata sopra, vedete? Arriva fino qui. Vedete qui l'inchiostro è più nitido e qui sembra un po' più offuscato, perché c'è questa velina incollata sopra. Naturalmente era indispensabile perché questi frammenti che andavano tutti a spasso era l'unico modo per tenerli insieme. Qui abbiamo un esempio, come dicevo, di smacchiamento. Questo è una specie di calendario di santi. Questo è prima del restauro, come vedete è imbrunito, ha queste macchie, queste gore di umidità marroni, una parte danneggiata di strappi, indebolimento della carta, soprattutto ai margini. Questo era incollato su un cartone e poi incollato sul legno anche, quindi ha subito anche, come vedete qui c'è anche uno strappo, ha subito anche dei movimenti dovuti all'incollaggio. Questo è dopo il restauro. Come vedete le macchie, se forse lo vedete, ecco, vedete? Questo è dopo. L'imbrunimento si è un po' attenuato, le gore sono meno nette, sono rimaste ma sono molto meno nette, quindi la scrittura è anche più leggibile. Ripeto, volendo si faceva uno smacchiamento più potente. Io naturalmente, come restauratrice di un ente pubblico, cerco di fare un restauro puramente conservativo, dove si può anche estetico. Però per esempio, se questo oggetto fosse di un privato, un antiquario, spesso si fanno degli interventi un po' più drastici, diciamo, per migliorare l'estetica, però come vi dico sempre a scapito della conservazione. Quindi è sempre un compromesso, il livello a cui ci si può spingere per non peggiorare la situazione. Questo è un volume, come vi dico, ecco, questo è un volume quasi uguale a quello che avete visto, a quello famoso Goitarli, giusto? È suo fratello. Qui l'intervento è stato al minimo. Come vi ho detto, l'attacco, il danno era prevalentemente sulla coperta, l'interno del volume era in stato discretamente buono, come vedete non è stato toccato. Le ondulazioni che c'erano sono rimaste, questa irregolarità nei tagli è dovuta al tipo di carte che non sono rifilate nettamente ma erano strappate così con un coltello, diciamo. È stata restaurata solo la copertina, perché questa era la cosa più danneggiata, quindi sono stati cambiati i piatti di cartone, perché erano tutti bucherellati dai tarli e non offrivano più la resistenza. Questo è un volume di notevoli dimensioni, quindi aveva bisogno in questo caso di cartoni sufficientemente resistenti per reggere proprio il peso. È stata restaurata la coperta aggiungendo una pelle nuova sotto, vedete, si vede sugli angoli e sul dorso, e mettendo sopra la pergamena originale restaurata. questo caso poi è stata aggiunta anche la cinghia che è andata persa, la cinghia di pelle, qui vedete la nuova cucitura, però è stata riutilizzata la fibbia originale, tutte le parti originali, le etichette originali, tutto quello che era possibile. Questo è un altro esempio di una copertina, prima abbiamo visto una pergamena floscia, questa è una pergamena rigida, anche qui vedete i fori dei tarli e sotto vedete una copertina, sotto vedete una pergamena nuova incollata e sopra messa la pergamena originale, aggiunti nuovi lacci di chiusura in pelle come era l'originale. Certo che fosse stato un pezzo unico, e anche qui il volume era in buono stato e non è stato toccato, quindi è stato solo spolverato, risistemato, insomma un intervento minimo indispensabile. In questo caso fosse stato un pezzo unico, magari di un privato, si poteva venire incontro tingendo la pergamena per renderla più simile all'originale. Questo è lo stesso volume. Questo è un tipo di cucitura, questo è un particolare di un dorso, di un volume in pergamena, con la cucitura dei fascicoli direttamente al dorso. Questo per dirvi che dove è possibile si rifà come era in originale. Se però, come abbiamo visto in quel dorso incurvato al contrario, il tipo di cucitura, legatura, di struttura originale ha portato a un certo tipo di danno, si può in questi casi particolari modificare come era l'originale. In questo caso io ho lasciato la cucitura originale che c'era con cui è nato il volume, perché il nostro archivio non è un archivio così frequentato che lo stesso libro viene consultato tutti i giorni e col tempo una cucitura così è una cucitura piuttosto fragile, che ne so, all'archivio di Stato di Roma o di Milano o di Firenze, probabilmente una cucitura così dopo un mese mi torna in laboratorio e devo rifarla perché si è già rovinata. Nel nostro archivio, dove c'è un numero limitato di lettori, si può fare questo ragionamento, appunto, che io cerco di mantenere com'era l'originale perché so che la consultazione non è talmente alta che porterebbe a un degrado rapido della cucitura. E poi, come avevo detto, della reversibilità: se un giorno vedessi che questa cucitura non va bene, non regge, la si ritalla, si rifà, si fa nuova, si cambia senza danneggiare il volume. Questo è un tipo diverso invece, questa è una pergamena semirigida, come vedete in questo caso la cucitura è sui nervi, sul dorso, che passano all'interno della copertina, qui ci sono i lacci di chiusura. In più, rispetto all'originale, sono state aggiunte queste due parti che si chiamano labbri per proteggere in parte il taglio davanti del volume. Quindi è una piccola, c'era anche in altri tipi di legature antiche, quindi è stata presa a modello e spesso la si aggiunge anche ai volumi dove non c'era, proprio per conservare al meglio il documento come protezione. Quindi le poche modifiche che si fanno agli originali sono sempre in funzione di una più lunga conservazione, non così perché piaceva, insomma. Questo è un altro tipo di copertina, si è restaurata la copertina originale, che come vedete era tinta, questa è la stessa pergamena, è solo tinta sul dorso e è lasciata naturale sui piatti. Qui è stato fatto un inserto di una pergamena dove c'era la lacuna, sono stati aggiunti nuovi lacci come erano gli originali, in questo caso erano di stoffa, quelli di prima abbiamo visto erano in pelle. E all'interno è stato messo un sottile strato di cartoncino per rendere un po' più resistente la copertina, che prima era completamente floscia, ma senza incollarlo, in modo che la pergamena, se sente sbalzi di umidità o temperatura, sia libera di muoversi tranquillamente, senza strapparsi, senza danneggiarsi, e senza aggiunta di colle che potrebbero essere una causa di un degrado futuro. Quindi in questo caso è un'aggiunta fatta solo per rendere leggermente più resistente la copertina, senza cambiarne l'aspetto esteriore e senza aggiungere elementi che potessero danneggiare. Quindi questo cartoncino è tenuto insieme solo dai nervi di cucitura e dai lacci di chiusura e basta, tutto il resto è libero, ma serve solo per dare quel minimo di consistenza in più al volume che può stare tranquillamente dritto sullo scaffale senza deformarsi come poteva essere una pergamena floscia. Questo è un esempio di una copertina, come vi dicevo, di un documento in pergamena scritto caduto in disuso, riutilizzato per farne una copertina. Durante il restauro del volume è stata fatta una copertina nuova, che ho visto prima, la copertina rifatta nuova come era l'originale, la copertina scritta è stata restaurata e mantenuta a parte, anche perché qui uno studioso può trovare nel testo qualcosa che gli interessa. Se io l'avessi riutilizzato e rimontato sul libro, nessuno l'avrebbe letto più. E senza contare che in questo caso appunto è stata una scelta, come vi dicevo, ogni oggetto si fa la scelta volta per volta, se è possibile la si riutilizza, se non è possibile come in questo caso, perché il documento può essere interessante e quindi va conservato a parte, e in questo caso la lacuna è decisamente grande, per cui è più la parte quasi ricostruita dell'originale, spesso non garantisce più la protezione corretta dell'oggetto, quindi in questo caso meglio fare una copertina nuova come era l'originale e tenere questa a parte. Qui volevo farvi un brevissimo confronto con quella pergamena che abbiamo messo nei cattivi restauri. Ecco, vedete la differenza tra questo tipo di restauro con questa giunta totalmente inutile in pergamena nuova, che è un vero pugno nell'occhio, e questa pergamena che è restaurata con carta. Perché in questo caso, avete visto quella copertina che vi ho mostrato, è stato fatto l'inserto in pergamena qui, perché la copertina è stata riutilizzata come copertina. In questo caso il documento viene conservato a parte, come un documento, e quindi l'inserto è stato fatto in carta, perché non serve questa resistenza della pergamena, e in questo caso il vantaggio della carta qual è? Tanto è stata utilizzata una carta spessa che sia dello stesso spessore della pergamena, ma in questo caso se la pergamena conservata in una cassettiera a parte subisse ondulazioni per sbalzi di temperatura, umidità, che possono sempre esserci, abbiamo detto la pergamena è molto sensibile, è più sensibile della carta, in questo caso se dovesse esserci un danno, il danno cade sulla carta, cioè eventualmente la carta che si raggrinzirà, si strapperà, si deformerà, la pergamena che è la più resistente si conserverà. Quindi se in un futuro la parte aggiunta si danneggia nel tempo, si può sostituire, come abbiamo visto, la reversibilità del restauro, e la pergamena non viene danneggiata. Se invece io aggiungo una pergamena grossa e brutta come quella che avete visto nell'altro caso, in quel caso sarà la pergamena nuova che avrà la meglio tirando la pergamena originale e danneggiandola. Questo è un esempio sempre di una copertina riutilizzata che non è più stata rimontata, in questo caso è stata conservata a parte perché, come potete vedere, è un bellissimo esempio di un manoscritto musicale. Ci sono pochi esempi di manoscritti, naturalmente questa è una pagina, cioè sono due pagine di un manoscritto che è andato perduto, però sono un bel esempio, vedete anche ha delle iniziali in rosso, molto carina, che può essere interessante per lo studio di specialisti di manoscritti musicali. Quindi anche in questo caso è stata restaurata. Scusi, di che secolo è? Però che secolo è questa? Non so dirvi, non sono un'esperta. Può essere del 1300, 1400, è in latino questa. Questo è un altro esempio. Qui vedete appunto anche qui un manoscritto musicale, due pagine insomma, sono state riutilizzate per farne una copertina. Qui vedete il titolo. Il titolo del volume che è stato aggiunto sopra, no? E per mostrarvi anche, come si diceva prima, il restauro a volte è un metodo di conoscenza per scoprire cose nuove, interessanti. A volte si trovano documenti interessanti, smontando il volume durante il restauro si trovano documenti interessanti. Questo era una copertina, appunto, era una pergamena riutilizzata per una copertina di un volume più tardo. E è un pezzo, una volta smontata, pulita, restaurata e spianata, vedete qui ci sono i fori di cucitura, questo era il dorso del volume, no? Dovete immaginarvelo voltato viceversa. Una volta spiegata la pergamena si è visto, questo è un calendario, un frammento di un calendario del 1300, un documento relativamente antico e raro. Questi sono i nomi dei santi. E quindi questo viene conservato a parte, sul volume viene fatto una nuova copertina simile a come era l'originale. Questo è un altro tipo, questo invece è un calendario del 1600, colorato, molto carino, in carta, che è stato trovato all'interno di una copertina quando ho smontato i piatti, perché i cartoni non erano, erano ondulati, erano rovinati, non reggevano più appunto al peso del volume, all'interno spesso venivano, come abbiamo visto che venivano riciclate le pergamene, anche per formare i cartoni dei piatti del volume, spesso venivano usati diversi documenti incollati uno sopra l'altro per fare spessore, una specie di cartonnage, tutta una stratificazione di vecchi documenti di tutti i tipi incollati insieme, riutilizzati. In questo caso sono saltati fuori, vedete, uno è a testa in giù e uno è a testa in su, sicuramente poi qui andava tagliato in mezzo, è stato stampato su uno stesso foglio, poi venivano tagliati, erano dei calendari dell'inizio del 1600 che venivano come i nostri adesso, stessi calendarietti che abbiamo adesso, insomma. In questo caso abbiamo queste specie di triangolini, sono i giorni della settimana e dei mesi, qui sono disegnati, adesso non bisognerebbe ingrandirlo, ma sono delle figure, hanno tutti un significato che adesso io non so neanche dirvi, insomma. Per ogni mese, ogni settimana c'era una figura. Questo è un'altra, anche questo, qui vedete un'aggiuntura, era diviso in due pezzi, questo e questo, incollati rispettivamente nelle copertine, nel piatto anteriore e nel piatto posteriore di un altro volume, che quando è stato restaurato ho messo degli altri fogli di guardia a protezione tra la copertina e le parti scritte del volume, e questo è stato, mi sono resa conto mentre lo restauravo che era lo stesso pezzo, li ho rimesso insieme come era in originale. Anche questo è un bel calendario a colori, sempre del 1600, qui leggete 1639 mi sembra, 29 o 39. Naturalmente quasi sempre i documenti che si ritrovano all'interno delle copertine sono più antichi, naturalmente, almeno dell'anno precedente alla fabbricazione del volume. A volte sono parecchio più antichi. Questo è quello che avete visto prima, quello famoso bruciato, questo qua, girato dritto. Ovviamente ci sono delle cose che non si possono restaurare, la parte bruciata è bruciata, la parte qui annerita, vi assicuro che era come una scaglia di vetro che proprio si sbriciolava, è stata ricostruita la pagina in modo da poter rimontare, rifare i fascicoli, ricucirli e riformare il volume. Naturalmente quello che è andato perso è andato perso, come vi ho detto non si può più riscrivere. E questo è l'albero genealogico che vi ho mostrato all'inizio. Questo era un particolare, questo è l'intero dopo il restauro, è un albero genealogico della famiglia Tarnsberg, della famiglia Figer di Castel Tarnsberg, vicino a Naturno, è circa 2 metri per 1,5 metri come grandezza, come vedete è un albero genealogico, qui c'è il capostipite, qui c'è il tronco, e questa è l'ultima generazione, questa è degli inizi del 1700 questo albero. E naturalmente la parte danneggiata, allora anche qui ho utilizzato una carta il più simile, ho preso qui la parte più simile all'originale sia come colore che come spessore, volendo si sarebbero potuti ritoccare i rami, in altri alberi genealogici l'ho fatto, in questo caso no perché anche le lacune erano piuttosto grandi. Per fortuna la parte più danneggiata è la parte in basso, dove qui non c'erano altre figure, per fortuna, perché come vedete parte dal capostipite, man mano si allarga e questa è la lacuna più grande con le figure che sono andate perse. Per fortuna in queste parti ai lati non c'era nulla, forse delle scritte esplicative, ma per fortuna non è andato perso. Questa parte in mezzo che vedete è ancora piuttosto rovinata. C'era un collante tipo gelatina animale che è irrigidito, per toglierlo avrei dovuto appunto erodere parte dell'originale, quindi anche in questo caso è stato fatto un restauro prevalentemente conservativo, è stata smacchiata la carta, le gore si sono sicuramente migliorate, è diventato molto più leggibile, però non sono intervenuta a smacchiare ulteriormente, anche perché avete visto come era praticamente sbriciolato in certi punti, c'erano proprio dei piccoli francobolli di carta ancora incollati alla tela. In questo caso la carta originale è stata incollata tutta su una superficie di un'intera carta l'intera carta da restauro e poi montata su una nuova tela, non è stata riutilizzata naturalmente quella vecchia che avete visto, era molto grossolana e molto danneggiata, è stata montata su una tela più fina di una qualità maggiore, però come avevo detto prima per quella copertina non è stata incollata tutta, è stata incollata solo il rimbocco della tela dietro il telaio in modo che la carta sia libera dalla tela sottostante, per cui intanto si sono usati molti meno collanti, perché per incollare la carta sulla tela ci voleva una colla più resistente, mentre incollare la carta originale solo sulla carta del restauro ci va una colla molto più leggera. E poi se in un futuro telaio, questo era anche qui, bisogna vedere il contesto, questo è stato riportato nel castello originale, naturalmente nel castello ci sono gli sbalzi di umidità, c'è freddo, c'è una conservazione diversa dal nostro deposito dell'archivio, quindi sicuramente col tempo subirà dei movimenti il telaio dietro a quei cunei che col tempo si possono battere di nuovo per ritendere di nuovo il telaio, e questi movimenti, essendo la tela staccata dalla carta, non provocheranno nel tempo il danno che l'originale, il montaggio originale aveva provocato. Questo è un esempio di un libello in pergamena, voi vedete, questo è un libello imperiale, qui c'è lo stemma con l'aquila bicipite, era o d'oro o d'argento, poi si è ossidato col tempo, qui vedete un sigillo, il sigillo è grosso così, ve l'ho mostrato l'anno scorso, il sigillo di questo anche l'anno scorso, e è un sigillo imperiale di Carlo VI, quindi del 1722, è un privilegio che Carlo VI ha dato ai calzolai del Renon, in questo caso, è scritto qui in piccolo, ma come vedete questo ve l'ho portato come esempio. Allora qui i lacci di chiusura erano andati in parte persi, in parte erano danneggiati, qui vedete un lunghissimo strappo per tutta la larghezza della copertina in pergamena, la pergamena si è ristretta, vedete, si era aggrinzita, si è ristretta e si è ondulata, questo è dopo il restauro. Quindi la pergamena è stata pulita, spianata, ritirata in questo caso e quindi ha raggiunto di nuovo le sue dimensioni originali. Sono stati cambiati i cartoni perché erano rovinati dalle muffe e si erano tutti rovinati, degradati. In questa parte è stata aggiunta una pergamena nuova dove non era rimasto più niente. E lo strappo che era qui, vedete, è stato ripristinato. Qui sono rimaste alcune grinze perché la pergamena ormai dopo secoli che si era ritirata, per quanto io l'abbia lentamente tirata, vi assicuro ci ho messo una settimana perché tirarla troppo in una volta avrebbe creato ulteriori strappi, quindi è stato un lavoro lento e graduale per cercare di ristenderla nelle dimensioni originali. Sono stati aggiunti nastri, in questo caso come vi dico l'estetica ha anche un suo valore. Si vede naturalmente quali sono i nastri originali e quali sono i nastri nuovi. È stato restaurato anche il cordone che si era sfilacciato e il sigillo che qui non vi ho mostrato aperto perché ve l'ho mostrato già l'anno scorso. E quindi diciamo che in questo caso è stato fatto un restauro conservativo ma anche estetico, perché naturalmente questo è un pezzo unico, aveva anche un suo senso, insomma. E poi questa è una scoperta più antica che ho fatto in questi 24 anni di lavoro. Come avevo detto, all'interno delle copertine spesso si trovano cose molto interessanti. In questo caso, in un volume in piena pelle della metà del 1400, ho trovato queste due carte. Questo è il piatto posteriore che io ho messo davanti per farvi vedere, no? Questo è il piatto anteriore, questo andrebbe sotto. È l'originale che si era staccato, che poi io nel restauro ricucito, rimesso a posto, ma qui per fare la foto, per farvelo vedere, era ancora durante il restauro. All'interno della copertina di legno, qui vedete anche dei bei fori di tarli, vedete qui i camminamenti dei tarli di cui abbiamo già parlato, incollata direttamente sul legno c'erano queste due pagine di una pergamena del IX secolo, quindi questa è una carolina autentica dell'Ottocento. Quindi non del 1800, dell'Ottocento. Questo è il documento più antico che io in questi anni di restauro ho mai trovato. È stata una bella scoperta dell'archivista. È un testo religioso, non è che ha grande valore, anche perché come avevo detto, come quelle copertine che vi ho mostrato prima, sono pezzi singoli. Ma non è una donazione? No, è un testo religioso, un frammento di un Vangelo, non ha un suo valore particolare per il testo, ha un suo valore per l'antichità, solo per l'antichità. Chi l'ha trovato? Io l'ho trovato. Ah, dove? All'interno di questo volume, un libro di conti della Contea del Tirolo del 1444, mi sembra. Era incollato all'interno del piatto. Ecco, in questo caso, come dicevo prima, si deve arrivare a dei compromessi. Staccare questa pergamena da questo legno era praticamente impossibile, senza danneggiare comunque il testo anche sull'altro lato. Allora, in questo caso, si è arrivati a un compromesso di lasciarla incollata. Naturalmente queste erano coperte dai fogli di guardia che si mettono a protezione tra il testo e la copertina. In questo caso io ho aggiunto dei fogli di guardia cuciti che però non ho più incollato alla coperta, in modo che aprendo il libro uno può vedere la pergamena direttamente. Ecco, io spero di non essere stata troppo noiosa, che vi sia interessato. Se qualcuno vuole vedere le cose dal vivo, l'invito è sempre valido. Io lavoro all'archivio provinciale, che è sopra la biblioteca Tesman, qua vicino, in via Diaz, di fronte alle scuole Longon, dove nascerà il famoso polo bibliotecario. Posso fare una domanda? Certo. Se vuoi privato che non ha la sua qualifica, come fa a sapere se un libro ha bisogno di risalto? Allora,